sostanzialmente quello che si può dire è che le risposte al decreto dignità perseverano in quella che è l'ideologia del maggiore flessibilità, maggiori posti di lavoro, che sappiamo essere smentita dai fatti, ma anche se vogliamo dalla letteratura accademica. Quel che possiamo dire nella realtà delle cose è che il decreto dignità ovviamente non interviene radicalmente, anzi, per quanto riguarda il diritto del lavoro e quanto riguarda la riduzione della precarietà. E va detto che le imprese continueranno e continuano ad assumere se solo se sostanzialmente domanda aggregata, salari, quindi crescita, riusciamo a crearne. Quindi sostanzialmente è legata al fatto che minore precarietà e forse aumento dei salari potrebbero creare più posti di lavoro. Quello che faranno le imprese sostanzialmente non è fare perdere posti di lavoro, ma aumentare la rotazione tra i lavoratori, cosa che del resto già fanno. Quindi il problema non si pone. Ovviamente si pone in termini proprio ideologici tra non toccate quello che è oggi la grande, diciamo, flessibilità del mercato del lavoro, in cui sappiamo benissimo che più del 70% dei contratti a termine durano meno di un anno, e lasciateci lavorare in pace. Sostanzialmente le aziende stanno chiedendo questo, perché poi del resto sugli sgravi e l'inutilità degli sgravi non dicono nulla, li prendono, tacciono.